Ma nel gruppo siamo solo noi. No, li fa adesso il gruppo perché... Venite! Metteci in fila! In fila! Ma cosa vuol dire? Ma così, tutti di qua, guarda di là! Tutti? Sì. Ci fa le foto! Molto probabilmente così sceglie i gruppi, però farà tipo 1, 2, 3. È vero, sceglie i gruppi!